La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpura, eccoci alla nostra ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, dalla nostra redazione. Siamo pronti a raccontarvi, come tutte le settimane, tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. Settimana di buon livello, diciamo così, sotto il profilo qualitativo dei film, anche con un numero importante, 6 nuove pellicole in sala, ma soprattutto alcuni film di quel famoso prodotto medio che deve essere quello poi che diventa un po' lo zoccolo duro della fruizione cinematografica. Insomma, non ravvediamo al momento in sala in questa settimana blockbuster diciamo così, di quelli da ramazzare tutto, e neanche film eccessivamente di nicchia. Un buon prodotto e anche alcuni buoni film. Ne parleremo durante questa puntata. Cominciamo allora a entrare un po' nel clima, nei temi della trasmissione, con i nostri titoli di testa. Un democratico sessuomane truffaldino, un repubblicano timido e timorato di Dio. Una sfida per le elezioni americane. Sono gli ingredienti di Candidato a sorpresa, commedia pungente sul rapporto tra politica e immagine, interpretata da Zach Galifianakis e Will Ferrell. Un supplente motivato, un professore disilluso, una preside indecisa. E in mezzo la scuola italiana, assai imperfetta ma da difendere. Con il rosso e il blu, Giuseppe Piccioni torna alla commedia, leggera nello stile, impegnata nei contenuti. Con Riccardo Scamarcio, Margherita Bui e uno strepitoso Roberto Erlizka, ospite della Rosa Purpurea. Lì dove nasce il mito di Woody Allen. Un documentario racconta il rapporto tra il grande newyorkese e la sua Brooklyn, con le voci di parenti, amici, attori che lo hanno conosciuto e amato. Un viaggio di un'ora e mezza dietro le quinte del lavoro di uno degli artisti che hanno segnato la nostra epoca. Si spogliano per soldi, ma non solo. Donne, divertimento, libertà. Per gli strip teaser di Magic Mike, la vita è una notte senza fine, finché qualcuno non spalanca i loro occhi sulla realtà. Nel cast, Channing Tatum e Matthew McConaughey. Dirige Steven Soderbergh. E allora, cominciamo subito con un film che si intitola Candidato a sorpresa. Il titolo originale è The Campaign, è un film del 2012, di quest'anno, prodotto quest'anno, diretto da Jay Roach, e ha come protagonisti principali Will Ferrell e Zach Galifianakis. Ora, sono due volti ormai molto noti, molto presenti nella commedia americana più recente, soprattutto quello di Zach Galifianakis, anche particolarmente riconoscibile perché è il piccoletto burbero e rotondello della saga, ormai, dobbiamo dire, di Una notte da leoni, l'avrete perfettamente presente, che qui si cimenta con un ruolo assai diverso. The Campaign, del titolo originale, è la campagna elettorale che deve portare un onorevole di grande esperienza democratico, Cam Brady, interpretato da Will Ferrell, però un gaffeur di proporzioni astrali, uno che tra l'altro fissato col sesso, insomma, come dire, di rimandi ce ne sono molti, fissato col sesso, uno che ne combina una ogni passo che fa, perché però con la sua avvenenza, con la sua capacità di parlare al pubblico televisivo, che è spesso un pubblico parziale ormai rispetto a quello della società, è riuscito fin lì a farsi eleggere. Di solito lui veniva spinto da grandi sponsor, diciamo così, che ci mettevano i soldi, e invece questa volta dovrà vedersela con un ingenuo rivale, appunto Zach Galifianakis, Marty Huggins, repubblicano, ultracattolico, padre di famiglia, direttore del locale ufficio del turismo, impacciato, e che però troverà il coraggio nel corso del film di affrontare questa campagna che lui non avrebbe voluto, ma che ha accettato nel momento in cui una coppia di vecchi ultramilionari, per farsi i fatti suoi un domani, decide di puntare su questo cavallo forse un po' zoppo ma estremamente manovrabile, quindi, secondo loro, da poter portare alla vittoria contro il candidato democratico. E chiaramente le due personalità sono molto diverse ed esploderanno durante il film con tutte le loro contraddizioni, a cominciare dalla clip che vi facciamo sentire, quella di una sorta di prova, quella di recitare il Padre Nostro, che finisce così. Bene, in quanto cristiano immagino sarà facile per lei recitare il Padre Nostro. E a questo dunque che siamo arrivati? Ai metodi da Gestapo? Io lo vorrei sentire. Voi non lo volete sentire, il padre nostro? Su, forza! Bene, ne sono felice. Padre nostro, padre, che sei nei cieli, sia quantificato il tuo nome. Scenda il tuo regno. Il regno magico. Sia fatta la tua volontà come in elicottero così in terra. Dacci oggi il nostro, dacci il panino quotidiano e faccelo digerire. Ma liberaci dal... No, passaci. Rimetti a noi i nostri debiti e non ci indurre in tentazione, perché siamo molto stanchi di questi balli retro. Ma liberaci dal male con la tua spada magica e il falcone. Nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Un'edizione, diciamo, abbastanza riveduta e corretta di questo analfabeta religioso. Ovviamente il film diventa da quel momento in poi una lotta senza esclusione di colpi fra l'imbranato che trova coraggio e quello che doveva essere invece la persona vincente che perde le sue sicurezze. È un film molto interessante questo, diretto da Jay Roach. Jay Roach è il regista di A cena con un cretino, di Austin Powers, ricorderete, di tutta la saga, di Mi presenti i tuoi. Ecco, insomma, c'è sempre nel suo cinema il gusto della battuta, anche della battuta grassa, c'è il gusto della dissacrazione, e questo esiste anche in questo film Candidato a sorpresa, che però non perde la sua intelligenza. È un film che dice anche molte cose della nostra politica, della nostra società, del nostro rapporto con l'immagine, con i media, anche se poi magari il finale è talmente happy ending, forse anche un po' forzatamente happy ending, da lasciare forse un po' disturbati dopo un film così acido anche in certi momenti, che racconta in maniera così ficcante, così efficace e anche così ironica, molto molto divertente in certi momenti, la storia di due personalità così diverse. Comunque, Candidato a sorpresa nei cinema italiani. Noi adesso sentiamo Come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo e parliamo della proposta italiana più importante di questa settimana, ovvero Il rosso e il blu di Giuseppe Piccioni. Ragazzi, buongiorno. Sono il professor Prezioso, il nuovo supplente di italiano. Allora, Alessi, Baldacci. Presente. Scusate, non è per una questione di ordine e disciplina, però quando vi chiamo, se vi alzate in piedi, così mi aiutate, insomma, a ricordarmi meglio di voi. Belletti. Qua, prof. Ciacca. Eccomi, professore. Ragazzi, spegnete i telefonini. Grimaldi. Grimaldi Antonella. 333 1615 108. Se lo segna, professore. Grimaldi, siediti, per favore. Non deve essere facile entrare da supplente, tra l'altro da giovane supplente, in un'aula di liceo in Italia oggi. È quello che fa Giuseppe Piccioni con il suo nuovo film Il rosso e il blu nei cinema italiani da questo fine settimana. Una bella storia di quelle che si iscrivono, diciamo, nell'ambito del cinema, che racconta la scuola per raccontare l'Italia, per raccontare i suoi giovani, per raccontare anche in questo caso i suoi professori, perché nel film è centrale, è un architrave proprio il rapporto conflittuale ma in fondo di attrazione fra il giovane supplente interpretato da Riccardo Scamarcio e il professore un po' scafato, disilluso, interpretato da Roberto Erlizka, che è in collegamento con noi qui alla Rosa Purpura e che saluto. Buongiorno Roberto Erlizka. Allora, un film leggero ma con tanta profondità, e nel quale questo rapporto, diciamo, fra questi due professori così diversi in fondo diventa anche un po' un rapporto mentore-pupillo, se vogliamo, perché tutto sommato si capisce che Riccardo Scamarcio, che è il professor Prezioso, ha una grande attrazione verso il professor Fiorito. Sì, ma insomma sono due momenti molto diversi di una stessa passione, quella dell'insegnamento. Il professor Fiorito vede nel professor Prezioso se stesso, quando aveva cominciato pieno di illusioni e di speranze, e siccome lui queste illusioni e queste speranze le ha perdute, lo contrasta, lo prende, insomma, non lo aiuta di certo. Poi però, andando avanti la cosa, il professor Fiorito subisce un mutamento interiore dovuto anche all'intervento di una ex allieva e ritrova quella sua, diciamo così, disponibilità, quella sua voglia di insegnare, di comunicare, e quindi diciamo che l'altro professore gli ritorna come qualcosa di positivo, e quindi insomma lo accetta, e insomma, ecco, è un rapporto che era destinato a comporsi. Ecco, all'inizio addirittura il suo personaggio, il professor Fiorito, è mancato suicida per caso, potremmo dire, a causa di lavori pubblici sotto il balcone di casa sua. Sì. C'è questa trasformazione, c'è questo cuore che si riapre al passaggio di questa ex allieva, come lei diceva, però c'è anche nella sua disillusione, tanta delusione riguardo a quello che la scuola potrebbe essere e a quello che evidentemente secondo lui non è più o non può essere più. Certo, c'è un'enorme delusione, perché vede che i ragazzi sono distratti da tante altre cose, quindi hanno perduto anche il senso della disciplina, insomma, e quindi anche dell'impegno magari forzato ma poi utile, e in più si ricorda di suoi allievi modello che invece poi hanno fatto una fine tutta diversa, cioè si sono dedicati a cose o inutili o semplicemente remunerative o addirittura criminali, insomma, quindi per lui questi ragazzi che erano come specie di fiori da coltivare, poi invece sono diventati delle altre cose, e quindi non ha più delle speranze su quelli di oggi. Se lei, anche per sbaglio, da sotto mette una cosa di sopra, io poi da sopra gliela butto. Avremmo dovuto studiare il barocco, ma noi siamo pienamente consapevoli di non capire assolutamente un cazzo, professore. Fuori. Sa cosa mi ha detto Ciacca? Era serio, Professore, ma Piero della Francesca era un uomo o una donna? Un genio. Ma lei ce l'ha con me, dica la verità. Ce l'ho con i supplenti. Sono pieni di buone intenzioni, causano danni irreparabili e se ne vanno. Padre Ciacca. Il signor Ciacca. Sì. Il signor Ciacca. Meriterebbero di essere bocciati tutti quanti, presi a calci nel sedere, uno per uno. Io però ho deciso di essere ancora più cattivo con loro, li promuovo tutti. E beh, questa forse è la punizione più alta. Grazie a Roberto Herlitzka, che è restato qui con noi alla Rosa Purpurea. Roberto Herlitzka, lo ricordo, nei cinema anche nel film di Marco Bellocchio, Bella Addormentata, tra l'altro in un ruolo di psichiatra non così dissimile da quello del professore del Rosso e il Blu. Beh, certo, sono accomunati da una certa disillusione e ironia. Grazie ancora, Herlitzka. Grazie a voi. Arrivederci. E allora, questo era Il Rosso e il Blu di Giuseppe Piccioni nei cinema italiani, un bel film italiano, magari non perfetto, ma con quelle caratteristiche che ci piacciono, la capacità di saper parlare a un pubblico ampio, di raccontare un tema che è vivo ovviamente nella pelle di ognuno di noi, che noi si sia genitori o figli, e soprattutto di farlo con leggerezza. Ed è una cosa che, anche grazie alla prova di Herlitzka, e devo dire anche a un buon Riccardo Scamarcio, ricordiamoci c'è anche Margherita Bui nei panni della Presidente in questo film, è riuscita piuttosto bene. Giochiamo insieme, prima traccia del film misterioso di oggi. Secondo voi è mio? Cosa? Non so che cosa fare, lei aspetta un bambino, capite? Certo che è vostro, e di chi altri può essere? Naturale che è vostro. Quando avete avuto l'ultimo rapporto con lei? Diciamo nell'ultimo anno? No, non credo. La prima traccia del film misterioso di oggi, diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it per provare a vincere il Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica, per il più bravo e veloce dei nostri ascoltatori. Più tardi avremo altre due tracce. Woody's original name, birth name was Alan Stewart Konigsberg. Now, my parents always called him Alan. They never stopped calling him Alan. Vi abbiamo fatto sentire le parole, alcune parole in lingua originale tratte dal documentario su Woody Allen. Avete sentito la sorella che raccontava il perché del suo nome, il fatto che questo signore che fa Konigsberg, Alan Stewart Konigsberg, a un certo punto sia diventato Woody Allen, anche perché in famiglia tutti continuano a chiamarlo sempre Allen. E questo è per introdurre, sempre con musiche tra l'altro tratte dalle colonne sonore dei film di Woody Allen, per introdurre questo documentario che arriva nei cinema italiani dopo essere passato al Festival di Cannes nello scorso mese di maggio. Si intitola semplicemente Woody ed è un bellissimo film che ci racconta il profilo di un artista, di un personaggio che ha cambiato o sicuramente inciso il suo nome nella storia del cinema, e ce lo racconta da dietro le quinte, ce lo racconta nella maniera più privata e quella anche più vicina al suo modo di lavorare, più capace di svelare il Woody Allen al lavoro, all'opera. Un film con un grandissimo montaggio, con una grande velocità di percorso proprio cinematografico, che comincia nell'infanzia, come tutte le storie, nell'infanzia del piccolo Woody, nei suoi primi, diciamo così, le prime exploit al liceo come scrittore di battute comiche per un totale di 50 caratteri. Questo era il massimo a cui poteva arrivare. Lui era molto bravo a fare questo, i giornali se ne accorgono, cominciano a chiedergli di pubblicarle. Da quel momento Woody Allen non smette mai di lavorare, non smette mai di creare battute, massime, motti, piccoli sketch. A un certo punto qualcuno gli dice: perché non li vai a recitare, non li vai a portare a teatro? Ed ecco allora i teatri off-Broadway a Brooklyn, nella sua Brooklyn, che gli danno spazio. Lui si esibisce, la folla risponde con grande attenzione, lo fa veramente per tanto tempo, fino a quando qualcuno ancora una volta non arriva e gli dice, alias agenti cinematografici, perché queste cose non le trasferisci in un film. Lui scrive un film nel quale, come sceneggiatore, nel quale cerca di darsi un piccolo ruolo anche come attore, e da quel momento in poi un altro scatto in avanti della sua carriera. Diventerà il protagonista, il regista di tutti i suoi film, e soprattutto il protagonista non di tutti, il regista sicuramente di tutti, ma nella prima fase li ha anche sempre tutti interpretati, e soprattutto, come racconta nel documentario, non perderà mai il controllo totale del copione, che in America è il vero segno, il cosiddetto final cut, è il vero segno del potere di un regista, cioè la capacità di poter decidere come deve uscire il film. Il film è dei produttori, diciamo storicamente. Bene, Woody Allen è uno di quelli che è riuscito ad avere il final cut, proprio perché fa un cinema, tra l'altro molto economico, a basso budget, a relativamente basso budget, almeno quello delle origini, e con questo è riuscito ad assicurarsi il controllo totale sulla pellicola, che per lui, come racconta, è assolutamente fondamentale. Insomma, un film che ci dà il senso del percorso, dell'escalation, del successo di questo regista e attore, ma anche della sua capacità di interpretare la società americana e strettamente quella newyorkese con un occhio davvero unico, come chiunque di voi abbia visto almeno qualche film di Woody Allen sa. Il film racconta anche i suoi amori, racconta anche le sue storie, Diane Keaton, Mia Farrow, racconta l'innamoramento per la sua figlia adottiva, Suni, e a un certo punto da lì in poi la rottura appunto con la ex moglie, ma lo fa sempre senza l'occhio voyeuristico, senza appesantire troppo, andare dentro vicende che riguardano appunto le stanze, le case o al limite le camere da letto dei personaggi. Ci racconta il Woody Allen, citando un film che forse non conoscevate e a cui non avete osato chiedere forse queste domande. Si sorride molto, tra l'altro, durante questo documentario, che è sicuramente un film per appassionati di cinema, anche in maniera abbastanza ampia, ma è un film che non tralascia la cifra di Woody Allen, anche appunto nell'ironia che ci mette e nelle straordinarie battute che ci fa riascoltare della enorme produzione alleniana. Woody nei cinema italiani da questo fine settimana. Noi a questo punto diamo la linea alla regia, fra poco torniamo insieme e parliamo di Magic Mike. La regola numero uno è un elenco di cosa si può o non si può toccare. Potete toccare questo. Potete toccare questo. No. No, mi dispiace, la legge dice che voi non potete toccarlo. Ma vedo tante faccine birbanti qui dentro stasera. E non c'è nessuno sbirro in questa sala. Ecco cosa succede tutte le sere al Club Exquisite. Siamo in California e quello che avete sentito parlare è Dallas, il personaggio interpretato da Matthew McConaughey all'interno del film Magic Mike, con il quale apriamo questa terza parte della Rosa Purpura. È un'altra delle novità che arrivano al cinema, un film molto atteso per tanti motivi, banalmente se vogliamo, ma insomma è così, dal pubblico femminile, perché è pieno di bellissimi ragazzi con fisici scultorei che fanno lo strip, insomma, voglio dire, più di così. E invece anche, tra l'altro, per il fatto che è firmato Steven Soderbergh. E Steven Soderbergh ha fatto diversi bei film, alcuni li ha anche commessi, si potrebbe dire, usando una metafora calcistica, ma insomma non sempre tutto gli è riuscito. Stavolta tutto sommato siamo sul pezzo e la cosa ci fa abbastanza piacere. Che storia è? Magic Mike, del titolo, non è il padrone del locale, il gestore del locale, ovvero Dallas, il vecchio ex stripper Matthew McConaughey, ormai diventato diciamo così il conduttore delle serate, lo chaperon di questo locale per sole donne. Il Magic Mike è Channing Tatum, ricorderete The Eagle, tanto per dirne uno di quelli recenti, insomma un ragazzo, un bravo ragazzo americano che di giorno si dà da fare come carpentiere, ha il sogno di mettere su una ditta artigianale sua che costruisca mobili fatti con gli scarti, i rifiuti delle lavorazioni di metallo, e cioè, insomma è uno abbastanza, vuol dire, che cerca di vedere avanti e che di notte si guadagna il grosso della sua vita precaria proprio andando a esibirsi, a spogliarsi sul palco dell'Exquisite insieme a un drappello, una mezza dozzina di altri compagni di lap dance. E allora Magic Mike introduce in questo magico mondo un 19enne che lavora con lui, un po' spiantato, senza un soldo, che vive da solo con una bella e seria sorella che si chiama Brooke. Il ragazzino, denominato The Kid, vede chiaramente, come dire, tutte le potenzialità di questo lavoro: esibirsi, essere desiderati, avere soldi, divertirsi, e come dargli torto sotto un certo profilo, abbraccia, diciamo così, questa carriera notturna. Il film ragiona proprio su questo, su come per il giovane questa carriera notturna diventi la vita, su come invece per Magic Mike, per Channing Tatum, la vita sia un'altra cosa, su come sia difficile però tenere divise le due cose, come sia difficile essere Magic Mike sul palco, desiderato, adorato, agognato dalle spettatrici dello spettacolo, e come sia invece difficile poi diventare un'altra cosa, di ritornare se stessi e cozzare contro la durezza della vita durante il giorno. Gli occhi di questa verità saranno quelli di Brooke, la sorella di Kid, di cui ovviamente Magic Mike si innamora, i due si attraggono, si interessano, anche se arrivano da mondi molto diversi e tutto sommato non apprezzano fino in fondo l'una il mondo dell'altro. Però c'è un'attrazione umana, una chimica che funziona e che permetterà a una forse di essere meno moralista di quello che pensava nel giudicare il lavoro del fratello e dell'amico, all'altro tutto sommato anche di capire bene da che parte sta la cosiddetta, la famosa retta via, prima che sia troppo tardi. Il bello di questo film è che Soderbergh lo dirige senza moralismi, mettendo in scena quel che c'è da mettere in scena e fornendo così uno spettacolo universale che non si limita a quello che vedi, ma si limita, ma va avanti, diciamo, comprende anche quello che invece ti fa, su cui ti fa riflettere. Questa è sicuramente una caratteristica positiva di questo Magic Mike di Steven Soderbergh. Vedi, baby, Non devi solo spogliarti, ma avverare le fantasie più selvagge di ogni donna in quella sala, ok? Tu sei il marito che non hanno mai avuto. Sei il principe azzurro, quello che non è mai arrivato. Sei la loro avventura di una notte. Tu sei il sesso sfrenato che avranno quella sera con te su quel palco. E quando torneranno dai mariti non saranno nei guai, perché tu, baby, l'hai resa una cosa legale. Sei la loro liberazione. E allora questo era Magic Mike. Nelle sale, a proposito di star, anche Bradley Cooper. È la settimana di quelli di Notte da Leoni in altri film. Prima abbiamo visto Zach Galifianakis, adesso Bradley Cooper insieme a Dennis Quaid, insieme a Olivia Wilde, insieme a Zoe Saldana, insieme a Jeremy Irons, un grandissimo Jeremy Irons, in The Words di Brian Klugman e Lee Sternthal. Carriera da sceneggiatori fino a questo momento, esordio alla regia. Klugman è uno che ha scritto Cloverfield, tanto per darvi un punto di riferimento. The Words è un film ambizioso, non particolarmente riuscito, fatto a scatole cinesi. Tutto comincia con un reading con uno scrittore cinquantenne di successo, Dennis Quaid, che va a fare il reading del suo libro. Quello che lui legge diventa per gli spettatori del film un'immagine diversa, cioè la storia di un giovane scrittore interpretato da Bradley Cooper che pubblica dopo una certa crisi di ispirazione, dopo essere stato sul punto di mollare tutto perché l'industria letteraria non lo ascoltava, eccetera, eccetera, decide di pubblicare a nome suo un vecchio manoscritto degli anni 40 che ha trovato casualmente in una borsa, chiuso in una borsa di un rigattiere a Parigi. Terzo film, terzo tipo di immagini, terzi personaggi che poi forse sono sempre tutti gli stessi che vediamo, l'ambientazione anni dopo guerra, diciamo inizio anni 50, parigina, nella quale si racconta la storia di questo vero scrittore, l'unico che abbia davvero scritto il libro, che arriva a scrivere il libro dopo una vicissitudine amorosa, sentimentale ma anche familiare davvero molto drammatica. Tre livelli quindi di racconto: il reading, le immagini di quello che Dennis Quaid racconta, le immagini dello scrittore del vero libro degli anni 50. Si ragiona attorno al tema del plagio, se vogliamo, proprio del furto di opera d'arte, nel senso che a un certo punto il personaggio di Bradley Cooper incontra il personaggio invecchiato del vero autore del libro, che gli fa, diciamo così, in maniera sarcastica i complimenti per la sua produzione. Come ci si sente? A proposito di cosa? Essere una persona conosciuta da tutti. È bello vedere il proprio lavoro riconosciuto, sì. Ho letto il suo libro. Mi è piaciuto davvero tanto, tantissimo. Grazie, mi fa molto piacere. Io, accidenti, adesso devo andare, mia moglie. No, lo so. Gli artisti sono sempre a disagio parla del loro lavoro. Vorrei solo che facesse una cosa per me. Certo. Mi chiedevo se potesse autografare la mia copia del suo libro. Certo. E ho anche una storia, molto buona, so che se lo sentirà dire continuamente, ma credo che questa le piacerà. Se io le raccontassi la storia e lei la riscrivesse, che ne pensa? Potrebbe riconoscermi un po' di merito? Non sarebbe una cosa giusta. Buona giornata. Parla di un uomo che ha scritto un libro e poi lo ha perso e della nullità che lo ha ritrovato. E questo è un momento fondamentale, tra l'altro sentito in originale, con un Jeremy Irons davvero gigantesco. Interessante, ambizioso, ben strutturato il film. Cosa non funziona? Non funzionano alcuni personaggi che non hanno né capo né soprattutto coda, cioè che alla fine non rivelano la loro importanza nelle svolte narrative del film. Non funziona il finale, che è praticamente inesistente. Ci siamo guardati tutti un po' così alla proiezione, dicendo, beh, e adesso va bene il finale aperto, però qualcosa bisogna anche suggerire allo spettatore. Questo sicuramente The Words non riesce a farlo, che però è un film che continua a mantenere un certo appeal, un certo fascino, proprio per il suo incontrare il tema della creazione artistica, letteraria, il tema appunto del furto, del passaggio di proprietà di un'idea, e questo è sicuramente la grande forza di questo film. Giochiamo insieme la seconda traccia misteriosa di oggi. Una volta costruì perfino un automa funzionante. Lui era un tesoro speciale. In lui avevo messo il mio cuore è la mia anima. E come vi abbiamo aiutato con questa clip, tantissimo. La Rosa Purpurea, @radio24.it, di che film si tratta, vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Questa non è una favola. Non è il frutto di avventata immaginazione. No, miei buoni amici. Questi addebiti che ho esposto oggi a voi, le precise accuse elencate qui contro questi individui, il loro tradimento, il loro scopo finale di sedizione, sono elementi tutti di innegabile realtà. Eh beh, sono note indimenticabili quelle della colonna sonora del primo Superman. Avete sentito prima Marlon Brando, tratto dal primo film 1978 in Italia, Superman, la grande saga del Superman, dei Superman cinematografici, con l'Extended Edition, con miliardi di minuti di contenuti speciali, con Superman 2, 3, 4, Superman Returns, insomma tutta la produzione cinematografica su Superman esce in Blu-ray per Warner, in una in cofanetto edizione limitata, con tutti i film interpretati da Christopher Reeves più Superman Returns e le versioni alternative del primo e del secondo Superman, insomma una grande abbuffata in tutina e mantello per gli appassionati di questo supereroe. Noi ne vogliamo parlare di quello che è stato Superman per il cinema con Alessandro Di Nocera, che è in collegamento con noi e che saluto. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera. Allora, è un periodo di supereroi, diciamo, ormai conclamati, un po' noir, un po' tormentati. Superman non era tutto questo, è stato forse quello che ha stappato, se vogliamo, la via a tutti gli altri, però è proprio l'eroe positivo e mi sembra che anche nell'excursus dei vari film non siano riusciti a farlo diventare troppo noir. In effetti Superman è il supereroe positivo per eccellenza. Si tratta di una figura molto chiara, molto limpida. Per questo motivo è stato considerato spesso dal pubblico come un personaggio in cui diventa difficile riconoscersi, a differenza invece di quanto possa capitare con Batman, soprattutto col Batman di Christopher Nolan, una figura tormentata in cui praticamente è possibile proiettare quelle che sono le proprie frustrazioni, la propria rabbia. Invece Superman è un personaggio che ha sempre incarnato il meglio di noi, cioè si proietta verso il meglio, quindi diventa più difficile, se vogliamo, riconoscersi, è paradossale questo, e quindi anche costruirci intorno una storia che possa essere appetibile. Infatti uno dei fallimenti, se vogliamo, di Superman Returns, l'ultimo film di Bryan Singer, derivava dal fatto che si trattava di un'operazione fin troppo postmoderna, in cui il regista e gli sceneggiatori tentavano di recuperare quello che era lo spirito semplice, di quello che era lo spirito solare del personaggio, e non per niente la prossima pellicola, che si è prevista per il 2013, The Man of Steel, invece tenta di agganciarsi, grazie anche alla produzione di Nolan, a quella che è, insomma, l'aspetto forse più problematico e alla e cupo del personaggio, e alla per esempio al disagio, alla capacità di non adattarsi completamente a quel sulla Terra, perché ricordiamoci che Superman è un extraterrestre, quindi c'è questa problematica del disagio, della incapacità di a volte di collegarsi strettamente con la razza umana, la differenza tra superpotere invece e normalità, che sono tutti aspetti del personaggio che andrebbero indagati e che probabilmente saranno, diciamo, il piatto forte della prossima pellicola. Allora, grazie Alessandro Di Nocera, ricordo autore tra l'altro di un bel libro edito da Castelvecchi, Supereroi e Superpoteri, proprio legato alla sfera dei supereroi. Questo per quanto riguarda Super, vi ricordo l'edizione in Blu-ray cofanetto con tutto il Superman cinematografico da Warner. Eccoci ancora insieme, la quarta parte della Rosa Purpurea con le segnalazioni televisive, con i film da vedere in Blu-ray e DVD. Cominciamo subito con il cinema gratuito, ma d'autore, ma di qualità, in televisione, con gli amici di Film TV, del settimanale Film TV. È con noi come sempre Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Settimana intensa nella quale approda per la prima volta su una rete generalista in chiaro e con un potenziale di contatti molto importante, uno dei film che hanno maggiormente contrassegnato, se vogliamo, nell'immaginario il cinema recente, ovvero Inception di Christopher Nolan. Sì, giovedì 27 su Italia 1 alle 21:10 in prima visione TV, Inception di Nolan, blockbuster d'autore da regista che ha rifondato la mitologia di Batman. È un thriller fantascientifico ambientato nel mondo dei sogni, un melodramma d'azione, una ricognizione sul senso di colpa, sulla persistenza del dolore nella memoria. Nolan fa un cinema che è anche un gioco mentale con lo spettatore, l'invito a muoversi in un'altra direzione come fosse un videogame, dove orientarsi e risolvere piccoli enigmi. È un intrattenimento assolutamente intelligente che chiede quindi uno spettatore attivo e ripara con una storia stranissima da morfù surrealista e spettacolarmente action, un film assolutamente imperdibile. Ricordiamo quindi l'appuntamento giovedì 27 settembre alle 21:10 su Italia 1, Inception di Christopher Nolan, quindi assolutamente in prima serata. Rimaniamo però alla stessa giornata, finisce Inception, ci prendiamo un cafferino, ci mettiamo davanti alla televisione perché alle 2:45, alle 5:20 della notte su Rai Movie c'è una nottata dedicata a un horror maker molto particolare, francese di nascita ma americano di adozione, molto molto prolifico nella produzione, Jacques Tourneur, con due film durante la notte. Sì, appunto, giovedì 27 su Rai Movie alle 2:45 Il bacio della pantera e alle 5:20 Ho camminato con uno zombie. Rai Movie sta recuperando in queste settimane alcuni classici B-movie anni 40 della RKO di Val Newton, che sono visti oggi saggi di economia narrativa e dei piccoli miracoli a low budget ma ad altissima temperatura stilistica. Il bacio della pantera e Ho camminato con uno zombie, firmati da Tourneur, che è il più talentuoso dei registi RKO, sono due horror veramente sbalorditivi, capaci di creare tensione e inquietudine stipandola fuori dall'inquadratura, nel fuoricampo, nelle ellissi del montaggio e forzando veramente uno spazio reale, mentale, assolutamente tenebroso in cui perdersi. I classici film che si dice da far vedere nelle scuole di cinema perché con mezzi minimi hanno una resa massima. E allora ricordiamo La notte Tourneur su Rai Movie, giovedì 27, fra giovedì e venerdì, diciamo, alle 2:45 e alle 5:20, Il bacio della pantera e Ho camminato con uno zombie. Grazie a Giulio San Giorgio, appuntamento alla prossima settimana. Grazie a te Franco, alla prossima. E dopo gli amici di Film TV, noi siamo arrivati invece alla terza e conclusiva traccia misteriosa del game di oggi. Chiesi ai fratelli Lumière di vendermi una cinepresa, ma loro rifiutarono. Erano convinti che il cinema fosse solo una moda passeggera e non ci vedevano nessun futuro. O almeno così dicevano. Beh, ci manca solo di dirvi il titolo, anzi ditecelo voi, la rosa purpurea @radio24.it, per provare a vincere una copia in Blu-ray per il sabato e per la domenica di questo film, che sveleremo la prossima settimana. La scorsa settimana avevamo riaperto le porte al nostro game con questa clip. Dubiti di noi. Dubiti di lui. Che ha messo lo scettro nelle tue mani, che ti ha donato l'antica sapienza e un nuovo proposito quando sei stato bandito, sconfitto. Io ero un re, il legittimo re di Asgard. Vanno in Emilia-Romagna le due copie di The Avengers della scorsa settimana, il nostro game di 7 giorni fa, Massimiliano Landini di Castelguelfo, Bologna, e da Enrico Buffo di Borgonovo Valtidone, Piacenza. Sono loro che hanno indovinato per primi il titolo del film misterioso di 7 giorni fa, che adesso andiamo invece a recensire nella sua versione in Blu-ray con il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora sì, prodotto da riferimento, distribuito da Disney Home Video, oltre a DVD è disponibile una pregevole versione in alta definizione, doppio disco Blu-ray per visionare il film sia in 2D che a tre dimensioni. Uno sforzo produttivo importante, fortunatamente anche per l'aspetto audio, perché c'è una traccia di DTS ad alta risoluzione non solo in inglese, ma anche in italiano, e sono entrambi addirittura 8 canali. Tra gli extra segnalo un simpatico cortometraggio spin-off del film, 5 scene eliminate estese, oltre a un inizio e finale alternativi. E questo è The Avengers, quindi il game della scorsa settimana, è veramente una puntata da supereroi. Abbiamo parlato di tutto, di Superman, degli Avengers, adesso di supereroi molto normali, quelli di Chronicle. Andrew, guarda, mi hai mandato una persona all'ospedale! Non te ne frega un cazzo! Per poco non moriva! Ci servono delle regole, va bene? Regola numero uno, niente poteri sugli esseri viventi. Regola numero due, non li usiamo quando siamo arrabbiati, chiaro? Regola numero tre, sarebbe molto meglio non usarli in pubblico e soprattutto non dobbiamo dirlo a nessuno. Ma senti, non puoi farle tu le regole, ok? Sì, che posso farlo. Ma scusa, non contava soltanto la nostra volontà. Stammi a sentire, se vogliamo continuare e diventare più forti, abbiamo bisogno di regole. Andrew è un giovane nerd che si sforza di avere una vita normale nonostante i gravi problemi in famiglia. Assieme al cugino Matt e al compagno di scuola Steve rimarrà esposto a una misteriosa forma di energia, realizzando ben presto che tutti e tre hanno acquisito incredibili poteri telecinetici. D'accordo a non usarli in pubblico, la situazione sfuggirà di mano proprio ad Andrew per la sua incontrollabile collera mescolata a deliri di onnipotenza. Con la collaborazione alla sceneggiatura di Max Landis, figlio del più noto regista John Landis, realizzato in stile mockumentary, il film sa come intrattenere nonostante i momenti scontati, con un'ottima progressione del racconto verso un delirante finale, un epilogo aperto. Edizione 20th Century Fox Home Entertainment, sia DVD che Blu-ray. Noi consigliamo quest'ultima, strepitosa, per la capacità di riproporre l'intensità del racconto. C'è audio DTS per l'italiano e DTS ad alta risoluzione per l'inglese. Tra l'altro il film è offerto anche in versione estesa con 5 minuti di scene inedite. Tra gli segnalo una scena non inserita nel montaggio, ci sono alcuni minuti di previsualizzazione proveniente agli attori ed è inclusa la copia digitale. Parliamo invece adesso di un film di animazione della passata stagione cinematografica che adesso arriva in un video ed è un'animazione molto, sempre molto suggestiva, molto particolare, quella praticamente in plastilina, quella cosiddetto passo 1, sentiamo. Sono il Capitan Pirata e sono qui per il vostro... Io non ho nessun oro. Nessun oro, eh? E allora posso chiedere cos'è questo? È il rene di un babbuino. Davvero? Oh. E questo invece? Ma è l'altro rene del babbuino. E questo Pirati, Briganti da Strapazzo, ci racconta un'Inghilterra, quella della giovane regina Vittoria, dove Capitan Pirata e la sua ciurma di straccioni scorrazza per mare nel disperato tentativo di depredare le navi per accumulare tesori e guadagnare il trofeo di pirata dell'anno. Assalito il vascello dello studioso Charles Darwin, quest'ultimo riconoscerà in quello che per il capitano è da sempre il pappagallo mascotte un esemplare di raro volatile che potrebbe ripagare i pirati con fama e ricchezza. Torna l'intrigante animazione, cosiddetta claymation, della Aardman, la stessa che sfornò i pupazzi di plastilina Wallace & Gromit. Una storia allegra, ironica, molto divertente e notevole il contributo del doppiaggio italiano, è presente anche la voce di Christian De Sica. L'edizione alta definizione di Sony Pictures Home Entertainment è completa sotto ogni aspetto, propone in un'unica confezione il Blu-ray in versione bidimensionale e tridimensionale e c'è anche il DVD. Traccia Dolby Digital multicanale per l'italiano e DTS per l'inglese. Sono interessanti gli extra, segnalo il commento dei creatori per tutto il film, ci sono due approfondimenti dedicati all'incredibile mondo delle riprese in stop motion e un simpatico gioco per i più piccoli. E questo era quindi Pirati, Briganti da Strapazzo in un video. Grazie al nostro Claudio Poffi, appuntamento la prossima settimana. Un saluto, a presto. Abbiamo chiuso, siamo arrivati in fondo alla nostra trasmissione, alla nostra puntata, ce lo ricorda la base della Rosa Purpurea. Allora a me non resta che ringraziare Giorgio De Luca in redazione e Peter Bescapè in regia, ricordarvi come sempre che potete trovare la Rosa Purpurea anche su Facebook cercando la pagina Rosa Purpurea Radio 24, cliccando mi piace per avere un sacco di cose in più, cioè i titoli della trasmissione, i temi in anticipo per poter poi andare a sentirla in podcast magari se ve la siete persa dal lunedì in poi, insomma un modo per restare tutti insieme, fare community di questo nostro programma. Grazie ancora, un saluto da Franco D'Assisi.